れろ学校。 Cambio. Avanti, cambio. Attenzione, Franco California, ci ascolti il doppio room, zona canica, cambio. Mi senti Gianni. Ehi, Franco, tu sì. Mi senti, stavo uscendo. No, già stavi uscendo, sì. Solo che io mi stavo lavando la macchina, e adesso me ne sto andando. Sì, ma lavaggio. E a carica sono. Tutto bene, sì. Sì, grazie a Dio, sì. Andava bene. Tu, tutto bene? Sempre lavorando, mi sono uscito adesso. Stai andando là? No, sono uscito adesso dal lavoro. Ah, ho capito, dai. Sei in macchina? No, a casa. Esco più basso. Fammi, io adesso sto uscendo dal rifornitore, me ne vado un po' al quadrato se c'è qualcuno e mi faccio una modulata e poi vado a prendere Elena allora. Ma come sto uscendo? Male o bene? Basso? No, sto uscendo bene, Fra. Io sono a carica e ti sento benissimo. Sì, adesso stai anche aumentando di segnale, abbastanza. Dimmi quanto sono di segnale. Zona motorizzazione, cambio. Qui arrivi 9 pieno. Già va bene. Vabbè, tu c'hai l'antenna in terrazzo. Solitamente i segnali me li danno molto più forti, ma tu avendo l'antenna in terrazzo magari mi ricevi più basso. Sì, adesso sei picchi 9-10. Dipende da dove sei posizionato, cambia da un secondo all'altro. Adesso stai tutto fischiando, Fra. Mi abbasso un po', mi allontano, così va meglio. Ehi, ma quel microfono là stai usando? Gli ho messo una specie di, ferrite, un blocco di ferrite nel cavo. Adesso vedi, riesco a parlare anche con l'alfalino acceso. Tante volte fa da filtro la ferrite. Sì, mi fa da filtro, però se mi avvicino troppo un po' all'apparecchio, devo tenerli un po' lontano dall'apparecchio, dai. Oh, prima invece sentiamo subito. Cappa, ma Paola non lo sapeva che stavi ancora modulando. Paola. Sì. E chi è Paola? Sorredua. E non si chiama Paola, no? Come si chiama? Rosa. Ah, Rosa, è vero. non lo sapeva che stavi ancora modulando. Un giorno stavo parlando e gli ho detto siamo amici di frequenza con Franco, eccetera. C'è già una D che non modula più, ho detto no, sta ancora modulando. Ma Laurita, lo sa che gli ho detto che mi hai consigliata tu questa persona tramite questa conoscenza qua, è lei che si ricorda niente. Vabbè, le tacce. Le tacce abbiamo una certa età, come si vuol dire. Si comincia a sclerare. Io ieri sai cosa ho fatto? Sono sceso giù col cane, mi ho lasciato la chiave attaccata alla porta, a caso vado a prendere la chiave per aprire il portone, non c'avevo le chiavi. E ho suonato da quella di fronte, meno male che c'era, ho trovato le chiavi attaccate. Anche qua è capitato, quelle volte trovo nelle scale portafogli, chiavi fuori nella porta. Capita. Lo so, perché quando c'è molti pensieri, molte cose da fare, capito? Ti succede. A volte le appoggi lì sulla tromba delle scale, diciamo nel pianerottolo c'è il corrimano, l'altro è montolato, e ci appoggi di tutto, capita di dimenticarlo. Qualche volta anche io, la chiave è rimasta attaccata, entri dentro casa e rimane fuori dalla toppa. No, ti spiego, quando devo scendere giù con il cane la prende a gioco, come vede col guinzaglio scappa e se ne va nelle scale, quindi devo andare col guinzaglio e metterlo nelle scale, nel frattempo metto la chiave nella porta per non dimenticarmi di chiudere, e ieri sicuramente mi sono dimenticato le chiavi, cazzo, sono andato a prendere le chiavi, mi sono assultato e ho detto, sicuramente o le ho perse o sono attaccate alla porta, se le avevo perse sarebbe stato un casino. Poi quando ho le chiavi devo fare un raio, ma chiavi di casa, di cambiare ferrature, cose varie, ma meglio non pensarci. Infatti, meglio niente, fra. E quella di fronte, ma te devi stare attenti da gente, vabbè, succede a tutti, non è che devi stare attento. La vecchiaia è carrogna. Buonasera. Buonasera anche a voi. Tatalino. Gianni Ghiddu. Mi sono andato a lavarmi la macchina, ho visto questa bella giornata. Adesso vado e mi lavo la macchina. Anche se, vabbè, diciamo che sono spese in più, ma fatto vuole. Ah, anche perché domenica mi sa che ha messo brutto. Vabbè, a quando è domenica. Interessante, me la godo un po' di giorni, perché l'altra volta l'ho lavata e il giorno dopo, io butto. E allora? Io l'altro giorno mio ho pulito solo i vetri, e già sembrava pulita la macchina, solo pulendo i vetri. Sì, ma tu lo sai dove passo io, no? Per accompagnare Elena, quindi quando piove lì tutto pozzanghere, un casino, me l'ha fatta come un trattore. C'è un punto lì dove si allaga, perché tutti costruiscono muri dalla strada senza lasciare gli sbocchi dell'acqua, capito? Si forma uno stagno, si forma, capito? Lì. Quindi, avanti Tattalino. Via, siamo in Oghe. E adesso mi faccio una cappatina al quadrato, mi faccio una modulatina, fino all'ora che devo andare, poi vado. Cappa. Adesso sei arrivato anche 9.30, Sto camminando, dai. Adesso sono vicino a Euronics. Benissimo, benissimo. Cava. La radio buona e fra. Buona e fra. Ottima, forte, chiara, c'è un leggero eco, ma non disturba. Questa radio è stata costruita da me. Come è costruita da te? Il microfono. Pensavo la radio assemblata da te. Almeno avessi quella testa che costruire la radio, non ne comprerei più. Sì, io a volte li invidio questi che aggiustano, che cambiano, saldano e... Sì, perlomeno noi facciamo qualcosa, ce la facciamo anche noi, ma niente a che vedere con questi tecnici. A ognuno su, bra. C'è qualcuno che ci costruisce anche lineari di quelli da 1000-2000 watt, capito? Sì, beati loro, mai non ho studiato. Magari anche passione, mi non vuol dire, tante volte sono appassionati e ne sanno fare più degli altri. Ma studiano per conto loro, guardano video, cose così, o qualcuno gliel'ha insegnato, non è detto che devi studiare per forza, qualcuno te lo può anche insegnare. Avanti Natali. No, devi studiare parecchio per poter costruire delle cose del genere, capito? Lo so, quello sarebbe ideale, cioè fare uno, sia uno che l'altro, imparare da qualcuno bravo e in più avere una base scolastica, diciamo. Mi sembra ovvio. costruisce uno che costruisce 15.000 euro da 3.000 watt con quelle valvole paurose, ed è un mostro quello. Eppure fa il carabiniere, però sicuramente avrà le basi se costruisce queste cose qua. Guarda che nel carabiniere ci sono i tecnici, per dire, Lupo Grigio era un tecnico del carabiniere. E lui sì, era alle trasmissioni, per i ponti radio, lui andava a fare la manutenzione a quelle cose lì. E non ci ha mai messo un'antenna come ci deve, boh? Perché lui magari tiene che gli dicano cosa, siccome sono inquadrati questa gente qua, e allora teme, non è piazza per quello sicuramente, magari ha sentito a me che disturbavo questo, quello, e allora temono per quello, ed è per quello che non se l'ha piazzata l'antenna, se no anche lui se l'avrebbe piazzata, se faceva queste cose qui, era maresciallo, aiutante pure, quelli con le sbarre rosse, figurati, non è un pilota qualunque, le cose le sa, però magari teme di disturbare e non se la piazza l'antenna sul tetto. Ma che buon cuore in realtà lì. Vai, cuoco, ma ne sarai tu. Adesso vengo lì e te ne taglio quella barba, mi hai capito, bello bene. Ma Vitella, non ho già detto Vitella. Lucrezia Borgia. Diana Nadini, la sorella di Claire Schiffer. E allora, qua su Progresso, alla Telò ci hanno fatto tutti i parcheggi per le macchine, dove il palazzo prima di cose, tutti i parcheggi hanno segnato a sfida di pesce. Strada nuova. Ho visto, da che la pista ciclabile l'ho fatto. Come hai fatto a vederlo? Dove sei andato? Ero lì ieri già, ho fatto a vedere. Tu dove sei? In macchina. Macchina sono. Pare mi ascolti, sì. Sì, benissimo. E tu a me come mi ascolti? Sì, prima sotto casa. Sono dove abita Gio Maria, là. Ero Gio Maria ieri. Cavagata. Positivo Cavarraggi, mi dà via che ne... No, credevo in un altro QTH. Cioè? Luca, capiscimi al volo. No, ma anche no. Cavagava, va bene. Allora, avanti a chi tocca. Sarà molto difficile già. Mai dire mai. No. A volte ritornano. Strani amori, non finiscono. Mica che hai lavato la macchina. Chi è che ha innescato? No. Stai fischiando? Niente, non si capisce nulla. Cioè, cambia. Chi era? Natalino era, no? Non lo so. Ma sai che c'è caldo in giubbotta, va, me ne cavo tutto. Un caldo da morire c'è. Da ieri a oggi ci sono 15 gradi di differenza. Fatti lo go. Senta, rimane per un freddo. Oh, stamattina c'era freddo, c'era un paio di gradi lì. Oh. Poi è scaldato, sta arrivando l'alta pressione. Io alle 8:30 così ero col cane in giro. E non c'era freddo. Stamattina qui dentro la Sassari c'erano, mi sembra, 7 gradi, 8 gradi, ma giù in campagna a Cani, alla zona lì, erano vicino ai 2-3 gradi. Sicuramente stanotte era schiarito, era sereno, è sceso un po' di freddo. Ma ci ho capito. Però poi bella, mi ha fatto anche un po' di asparagi, l'abbiamo regalato un paio di... I dipendenti dell'impresa, poverini, che loro non hanno tempo di raccogliere, questi lavorano e buh. Noi invece abbiamo il tempo di farci anche 2 asparagi, dai, li abbiamo regalati. Avete fatto bene, dai. Io sono andato a cercarli, cioè sono entrato in una campagna con il cane, con la scusa di entrare col cane, ne ho trovato 2 o 3, ovviamente se li abbiamo infatti tutti. Vabbè, noi oggi eravamo lontano dai percorsi, diciamo, frequentati dalle persone, perché tra Molaffa e San Giorgio eravamo. E poi c'è la linea ferroviaria che vi bacia. No, ma giusto, qualcuno già c'è, anche Giuseppe, come si chiama, Giuseppe Garibaldi, quel clochard che ormai lo conosci, è sempre carico di buste col K2 verde. Sì, ho capito. Giuseppe, quello lì va dappertutto, va. Ehi. che io mi sto allontanando, sto salendo verso il lunedì sole, come mi ascolti? No, sempre bene, 9.20, 9.30. E io uscendo sto adesso. No, lo so, dicelo tu, stai uscendo? Se devi uscire esci, eh. Io penso di sì. Basta che torni subito, dove devi andare? No, già devo rimanere qua, capito. Volevo sapere solo se stavo uscendo con questo apparato. Ho dovuto cambiare apparato perché l'MB più 4 l'ha presa a fischiare oggi. Ehi, stavo scherzando. Sì, sì, questo va benissimo. Sei cuocuovole, sei cuocuovole. Lucrezia, questa qui è l'antenna come quella di Salvini, mi fra. Da Didi. No, esce bene, esce bene. E a voglia, anche lontanata c'è bene. Cosa devo fare? Arrigami che si antenna mano a mano quando questa qui va benissimo. Quanto è alta questa? 1,60. Vabbè, 20 cm, quella che io è 1,80 mi pare. Ma è più grossa, questa qua è fino a fine. C'ha la carica, si vede l'avvolgimento, c'ha la trasparenza, no l'avvolgimento. È fina come antenna, leggera, capito? Non si stacca questa qua. Poi la calamita attacca tre volte di più dell'altra. No, no, esce bene, esce bene. Meglio così. Magari da mezzo ai palazzi non uscirà bene bene, però già mi accontento. Vai tranquillo, Lugari è. L'altra ce l'hai la calamita già. Sì che ce l'ho, è attaccata all'altra antenna, la sto vendendo. La Turbo 2001 con la magnetica, 40 euro, chi la vuole? No, a me mi serve solo la magnetica, se me la davi che mi mettevo l'attacco a PL per quell'antenna multibanda mi serviva. Se no mi faccio la staffa e me l'attacco qua. Ma cosa te la do a fare che dopo ti sfascia la macchina, ti si stacca e ti si sfascia la macchina? Vai, lascia BD, non è sicura per niente quella magnetica. Ehi, ho capito, va bene, mi faccio la staffa e l'attacco al palo di questa antenna qua, così ne ho due antenne multibanda. Bene, bene, Lucrezia. Ma lo c'hai per i 2 metri, per i 70 centimetri, Natalì? E ne ho due, una l'ho costruita io e l'altra è la X30. C'è molta differenza? No, una è solo per UHF, quella che ho costruito io, l'avevo costruita per ascoltare il PMR, e l'altra è la X30, la X30 arrivano i punti fondo scala qua. Sì, no, io ho fatto quella multimanda, ma sì, riesco a agganciare anch'io i punti, però non è al massimo qui, non è fondo scala. Dipende da che altezza è, se è libera, ci sono tante cose da valutare. Che antenna c'hai tu? L'ho costruita io, quella sempre col cavo, come si chiama, dentro il tubo di plastica, quella lì ho fatto. E c'è una specie di spirale sotto, di 5-6 giri di cavo. L'ho copiata da un progetto, dai. Ho capito. E io c'ho proprio quella originale, con l'attacco N e tutto, no, quella esce bene. Invece l'altra l'ho costruita io ed è solo UHF, per ascolto la uso da. E a volte è meglio una per ogni frequenza, perché quella è multibanda, sì, vedi, prendi tutti e due, però né una né l'altra la prendi al massimo, dai, avanti già. È come quello che sa fare tutti i lavori, non fa uno bene. È un compromesso di antenna, sì, ricevo qualcosa, però non è selettiva. Infatti, non è specifica per quella frequenza, è adattabile, dai. Sicuramente risuona in tutte e due le frequenze, risuona, capito? Eia. Natale, avanti, come mi ascolti sempre bene, via Lunesole da parte mia. Ehi, sembra che sei seduto vicino a me, non so se mi arrendo o se faccio colazione. Io ho un'antenna per macchina multibanda, adesso me la piazzo e così ne ho due, una me l'ho costruita, una filare multibanda e adesso ho anche quella verticale, diciamo così. E poi quella frusta nera l'avevi riutilizzata? Sì, sì, in macchina quella. Funziona bene? Yes, sir. Quella all'epoca mi ha tolto un sacco di soddisfazioni. Beh, te credo. È un chilometro di antenna, però. È un bel pizza. Ah, giusti. Lui è un bisonte. Luca, sei andato? Come al solito, va. Come la chirichetta, quello, eh. Vediamo, Gianni, ti mi sente? Ti sento sempre, fra, benissimo. Io perché ti sto perdendo? No, io ti ascolto sempre. Io sto pompando, Ah. Guarda adesso se mi senti. Sì, ti sento basso basso, non c'è segnale, però la radio è bassa, dai, due sarà. Vedi, se sgancio perdo un sacco. Praticamente io ti sento come tu sentivi me, dai. Vabbè, adesso io sono chiuso, non sono aperto, sono in mezzo ai palazzi. Comunque, non ho QRM, quindi ti tiro fuori ancora bene. Cavagava. Quell'antenna, se l'avessi messa sul tetto, sai quanto ti avrebbe reso, fra? Ogni tanto ci penso anch'io, dai, non farci pensare. Fallo, gatto, ci vuole più a dirlo che a farlo. Sì, sembra facile, ma chi lo sa, mai dire mai, come dico io. Il giorno che ti sei lo scrivito, il flash ti deve venire. Io magari sale qualche muratore e mettiamo magari un tubo proprio sul culmine del tetto, un bel tubo nuovo, sigillato bene, chiuso in modo che non entri acqua nel tetto, nel sottotetto tassellato al muro. Che cosa? E poi tanto il cavo ce l'ho già pronto, il cavo ce l'ho già preparato, dai. Ia. Ho l'H155 che è pronto. Gaba gaba. Nadal. Anche Natalino abbiamo perso. Io me ne devo scendere 5 minuti a riempire un bidone qua al quadrato. Che l'ho svuotato. E così me lo riempio qua, in questa fontanella che c'è. E dov'è la fontana al quadrato? C'è un rubinetto, dai, a fianco a quel cancello grigio, verde. Ce l'hai presente? Dove entra il circo? Non ho mai visto però il rubinetto. Ed è aperto al pubblico. Ma questo non te lo so dire, c'è il rubinetto, io la prendo sempre. Poi c'è aperto, non lo so. Fra, lasciami un attimino di tempo che me lo riempio. Ciao. Franco. Lea. Fatto, c'è il turbo quel rubinetto, questa è una potenza che fa 5 minuti e riempie più un bidone. Vuol dire che è bello libero il tubo, me. Un impianto nuovo questo, quasi sicuramente l'hanno fatto non lo so se per irrigare, ma è aperto, capito? È aperto. E quindi io ogni volta quando magari mi manca l'acqua così, in macchina me la prendo. A me lo sai dove andare, dai. E intanto stavo salendo qua per farmi una chiacchierata. E così ne approfitto, capito? Andava bene, però vedi, anche se sei in alto io qua non. Devo essere coperto per quella parte lì. Sono in movimento, No, ma tutti venivano bassi, quelli che vanno in macchina lì, in quella zona lì. Adesso mi metto in mezzo al quadrato e vediamo se mi senti meglio. Prova. Attenzione, Franco, guarda adesso se mi ascolti meglio. Cambio. Sì, hai aumentato, quasi il doppio di prima. Perché lì ero un po' nascosto, dai, c'erano i palazzi. Va bene, dai. Comunque, ripeto, non ho mai avuto problemi per ascoltarti. Sì, ma l'altro giorno arrivavo 9.30, andando là, capisci a me, 9.30 gli arrivavo a, come si chiama, a Gavino, a coso, verso il sorso, dai, verso la strada di sorso. Lì sì, anch'io quando scendevo in macchina a Franco per esempio lo ascoltavo benissimo, cosa che da qua a Sassari mi arriva un segnale di 1.5, 2, forse 3 a volte, si aumenta un po' la potenza. No, a me già mi arriva bene Franco, a me mi arriva 9.5, 9.10, a volte quando attacca anche 9.30. Tu sei aperto, c'è una posizione fantastica. Cavagava. Sì. Forse abbiamo parlato assieme, Natalino è sparito. Natalino! No. Andiamo, cazzo! No. Adesso devo farne un altro microfono con una capsula di Turner. Mi ha detto Luca, fai, bisogna inventare sempre. Lucrezia? E dove Luca? È entrato, ha dato l'acqua santa e poi è andato già via. Per carità, non se ne può fare né cage né lana. Tu immagini questo Luca, La luce è arrivata a te, fra. Ehi, e beh, com'era? Meglio? Oltre 200 sempre, 207 mi sembra. Togliene 20 euro di canone. Quasi 200, dai. 185. A me praticamente mi è arrivata 230 il mese scorso, questo mese 170 qualcosa. No, io il mese scorso era 270, invece c'è un mio collega, mi sembra gli è arrivata, lui paga ogni mese, neanche 40 euro, però ha cambiato da molto lui. E cosa fa? Lo si lava? No, paga poco perché c'è un contratto di quelli, no, nulla praticamente, paga 0,00 spiccioli al kilowatt. Vabbè. Bisogna anche sapere questi contratti particolari, perché se non li conosci, magari per noi non va bene. Se tu attacchi lo scaldabagno ogni giorno, se ti lavi e lasci fare la piastra, questo e quell'altro, cosa fai? È normale che si consuma. Lei dice che è il malachito che consuma, ma cosa? Lo stava chiedendo, mi ha detto no, non consuma nulla, gli ho detto io. È un trasformatore, non consuma nulla, tu figati che lo usi in macchina, lo stesso apparecchio. Ma te l'ho detto anch'io che erano 12 volt, cavolo, come fa a consumare? Ho cercato di buttare acqua sul fuoco. No, comunque dai, cosa volevo dire? Lui c'è un contratto, anche se gli è scaduto praticamente, e gliel'hanno rinnovato con le stesse caratteristiche di 2 anni fa, capito? Di 4 anni fa. Ah ecco. E com'è possibile? È impossibile, guarda, cioè, me l'ha fatta anche vedere la bolletta. Gli hanno praticato lo stesso prezzo di quando lui ha accettato quel cambio, dai. Adesso non mi ricordo con chi sia, con quale fornitore sia. Comunque è abbastanza conosciuto. Ma non è nell'energia. No, non è nell'energia, non è Enel. Invece mia sorella in campagna è passata ad Enel, anche lì a casa sua. E qualcosa nemmeno di me la sta pagando comunque. Il mio si chiama Servizio Elettrico Nazionale. Anche io ho ancora quello, perché non ho mai cambiato, ma mi sembra che tra qualche mese ci cambiano d'ufficio. E dove ci mettono? Dove capita? A così, perché? Ma ci mettono loro in automatico? Sì, se non fai la scelta, poi praticamente siamo merce di scambio, ci danno un po' a uno, un po' all'altro, un po' a tutti, ci dividono, e non si sa dove andiamo a finire. Ma perché questa cosa qua? Lei non le vuole più tenere di... No, il servizio nazionale andrà a cessare, quindi se non fai la scelta, capito, ti viene dato tipo un avvocato d'ufficio, praticamente, una cosa del genere. Quindi ti daranno un operatore che non si sa quale sia. Infatti, se poi fai la scelta, boh, anch'io farò qualche scelta, perché abbiamo poco tempo però. E chi lo sa dove andare? Chi lo sa quella che conviene di più? Non lo so, un attimo che c'è gente in verticale. Via. Natalino, ci sei, cambio? Eccomi. Ho detto, bisogna vedere quello che conviene di più, fra. Qua non lo so, quando vai a fare calcoli oppure leggi le recensioni, ne trovi 10 che ne parlano bene e 4 o 5 ne parlano malissimo. Perché sempre, diciamo, è una cosa individuale, dai. Qualche disavventura ce l'hanno tutti. C'è quello che dice, guarda che gliela tocca, io so benissimo, ci sono tanti anni, c'è quello, mamma mia, al primo mese mi è arrivata una bolletta allucinante, non so più come uscirne. E quella è la paura, fra. Non so mai neanche io cosa fare, se passare energia, boh, mi sembra uno dei più equilibrati, diciamo. Praticamente, fra, tutti quanti usufruiscono di quella centrale di Enel, e poi c'hanno i guadagni tutti quanti, capito? L'Enel secondo me era l'unica da avere, perché io ho quel contratto dell'Enel che praticamente dopo le 8 consumi di meno, i giorni festivi consumi di meno, e se ti aggiorni con queste cose qua, magari attacchi la lavatrice dopo le 8, capito? Cerchi di risparmiare. Sì, anch'io quella lì, quella con tre fasce orarie, F1, F2, F3, la bioraria come cavolo è. Tu conto che io non ho niente qua di elettrico, perché l'acqua calda ce l'ho a gas. Non lo so, la cucina è, il forno è elettrico. Scaldabagno comunque non ne ho. Lampadine, vabbè, il computer il mio figlio è sempre acceso. Quelle sono, mi sembra sia un trasformatore da 500 watt, ma penso che siano modulati questi consumi in base all'assorbimento del computer. Boh. Il computer già consuma. Quello è acceso notte e giorno, lui difficilmente lo spegne. Mio figlio non è lo stesso, mio figlio è lo stesso. È una bestia, c'è un trasformatore dovuto da 500 watt. Vabbè, carità. Adesso anche accenderti la radio, devi pensarci due volte. Io prima stavo sempre con la radio accesa, adesso ci penso due volte. E allora ho preso quella cassa che si carica la batteria, poi stacchi la spina e te la ascolti con la batteria a carica. C'è l'accumulatore e non consuma sempre energia. Una volta sì, una volta no. Ce l'ho anch'io, una cassa della GBL l'ho presa, ma si sente veramente bene. E io ho quella con tutte le luci che si accendono per fare il karaoke, capito? E si sente anche la radio. Ah, tu quindi quella grande? No, la mia è... quanto è grande? 20 cm di larghezza, di diametro, perché è una specie di cilindro, è rotondo, no? E ha due casse ai lati, due altoparlanti. Ma, guarda, per come piccola hai dei bassi profondi e si sente di un bene allucinante, guarda. GBL sono casse buone, sono casse buone le GBL. No, io ho preso proprio la casa per il karaoke, si può mettere la pennina, c'ha la radio, la pennina e più c'ha i microfoni senza filo e puoi cantare con Bluetooth. Sì, no, le conosco, già ce l'abbiamo, cioè, i miei parenti già le usano, loro sono appassionati di karaoke, mio cognato, mia cognata. Ricaricabile, tipo un trolley sembra. Esatto, sì, c'ha le luci fianche che si accendono e si spengono. E quello lì è l'unica perché quando io canto, per dire, lo uso con l'accumulatore e risparmio energia. Non so se si risparmi, non lo so. Quanto consumi per caricarla. Alla fine c'è sempre da pagare, eh? Vabbè, rifò raffa. È come la macchina elettrica, alla fine devi camminare e devi caricarla. Guarda, la macchina elettrica c'è tutto un discorso da fare, se farebbero le macchine che camminando si caricano automaticamente con, cosa ti posso dire, prima c'era la dinamo, adesso c'è l'alternatore, tipo quello che carica la batteria e la fa andare. Allora conviene. Ma sì, il tetto è un pannello solare, il cofano stesso è un pannello solare, che tutta energia che può recuperare, anche quella in frenata, tutto. Perché per il resto, per il momento a me non mi danno nessuna ispirazione. Ci sono delle colonnine, ho visto, dell'Enel, ci sono le colonnine dell'Enel, se tu sali al monte le vedi. Ormai ci sono quasi dappertutto, ne ho visto anche un paio a Olmedo l'altro giorno dove c'è il campo di calcio, anche lì ci sono un paio di colonnine. Non ho capito come funzionano, se devi mettere qualche scheda, qualche cosa. O ci metti la carta, come si dice, tipo il bancomat, come fai per rifornire, no? Ah ecco, e tieni giù c'è di là. Tu come fai? Metti la carta, il codice e poi quando stacchi... Praticamente, quanto hai consumato? 15 kW, per dire, no? E pagherai per 15 kW. Credo che sia così, non l'ho mai guardato. Hanno fatto un conto che praticamente con la macchina diesel e con la macchina a elettrico si paga di più elettrico che diesel. Dove sta il guadagno? L'ho visto quel test che hanno fatto. E in più ci hai messo due ore in più con la macchina elettrica. E poi ti devi fermare a ricaricarla, la dice il video anni. Io mi ricordo che quando andavo a Cagliari col gas, andavo, ritornavo a metà strada, scattava benzina, mettevo due piedi, una benzina e una gas. E io non mi fermavo nemmeno, fra. Lo so, aspetta che mi stanno chiamando un attimo. Ia. Qualcuno vuole entrare? Ciao Franco, ciao Gianni, vai qua. Ciao Giulio, buonasera, ben entrato. Ho sentito una portata, non so se fossi tu, una bussata. Adesso un attimo prima di dire qualcuno vuole entrare, ero io. Una volta però stavo appunto provando se stavo uscendo, sì. Sì, tornando al discorso delle bollette della luce, io avevo prima Enel nazionale e avevo pagato l'ultima bolletta Enel nazionale 408. Poi ho cambiato due bollette fa, le ultime due invece sono Enel Energia. Una, la prima Enel Energia, ho pagato 280, una cosa del genere. Adesso l'ultima che è arrivata, però con la stufa accesa, eccetera, 308 adesso, ma ormai due mesi di stufa buoni. Giulio, sì, dipende infatti quanto è consumato, perché è inutile sapere la cifra, bisogna vedere quanto è consumato sulla carta, in kilowatt. Beh, io appunto prima senza la stufa, stavo dicendo, perché ancora l'inverno non era così freddo, e avevo pagato l'ultima bolletta Enel 408. Allora ho fatto, beh, adesso cambiamo, vai. Ho fatto il cambio Enel Energia, e la prima bolletta Enel Energia è arrivata senza ancora accendere la stufa, 280. Adesso ho gli ultimi due mesi che la stufa pellet, io la stufa pellet e l'accendo 6-7 ore al giorno, l'accendo, mi è arrivata adesso 308, questo è l'ultima di adesso. Ma la stufa pellet, cioè, dovrebbe consumare poco, cioè, facciamo un motorino, cosa c'è, un aspiratore per i fumi, la cloaca per far scendere il pellet, poi altro, c'è una ventola tangenziale per soffiare l'aria, non dovrebbe consumare tanto come stufa, non è una stufa elettrica, dai. Allora, ancora prima, quando avevo Enel, quando usavo la stufa, la bolletta si aumentava ogni due mesi di 50 euro, si aumentava perché usavo la stufa. Praticamente la stufa mi consuma ogni due mesi una cinquantina di euro in più, mi consuma, per cui adesso è la stessa cosa. Pertanto fai il conto, da 308 togliene queste 50 euro di stufa e all'incirca sono 250 euro. Chiedo scusa anche a Gianni, ma poi a livello di elettrico cos'hai? Scaldabagno, altre cose? Sì, scaldabagno, la televisione qua rimane accesa dalle 8:30 a 9 del mattino fino anche alle 2 di notte, sempre, ininterrottamente, non si spegne mai qui la televisione, dalle 9 del mattino fino anche alle 2 di notte, per cui, anzi ti dirò di più, molto spesso la notte quando c'è l'ora della televisione, dopo cena, di televisioni ce ne sono tre accesi qua, uno mio, perché io guardo sport eccetera eccetera, anche politica, uno quello di mia moglie che si guarda Maria De Filippi, e poi c'è anche mia figlia nella sua camera che lì si guarda i suoi programmi. Beh, già tre televisori sono quasi un kilowatt di... Vabbè, i nuovi, se sono recenti, magari consumano anche un po' meno, quindi a LED magari. Dai, vediamo Gianni, dove sei? Sei sempre lì? Sì, io sono fermo, sono fermo. Mi sono spostato per sentire a Giulio perfettamente, perché lo sentivo un po' più basso, solitamente lo sentivo più alto. Lo sentivo lo stesso, però mi sono spostato perché adesso lo sento meglio. Ok, ciao già, va bene, sto uscendo sempre con 2 watt e basta. Sì, già, vai così, comunque su energia conviene perché si risparmia qualcosa, però la bolletta comunque è sempre alta e non ci sono dubbi, perché 308 di luce questo bimestre, perché io pago ogni due mesi, no? Questo bimestre non è poco, a differenza di prima che ci fossero tutti questi aumenti eccetera, ogni due mesi, che allora era solo Enel nazionale, pagavo intorno ai 150-170, fra i 150 e i 170, per cui l'aumento c'è stato notevole. Ho capito, no, a me il mese scorso mi è arrivato 230, questo mese sono 178. Ok, adesso togli anche i 18-19 euro quando è di televisione, per cui è facile fare il conto, no? non c'è andare a scappare molto. Comunque ripeto, con Energy qualcosa stiamo risparmiando, ma comunque poi ci sono altre persone, una ad esempio prendi Antonello che tu conosci, quello paga 100, 109, 110, addirittura con il costo del canone della TV. Ma come fai a pagare così poco? Come faccio? Così è la bolletta, sarà cosa vuoi che ti dica già. Sì, vabbè, ci sono anche delle fasce orarie, se le rispetti i risparmi, tipo quella che ho io, il contratto, se usi per dire la lavatrice dopo le 8 risparmi, oppure nei giorni festivi. Naturalmente se tu c'hai roba a lavare non è che guardi quello, però se segui queste regole qua. Diciamo che qui lo scaldabagno è sempre acceso, 24 ore su 24, non ci sono dubbi. L'acqua calda si usa tutti i giorni, soprattutto quando si deve fare la doccia e poi lavare i piatti, eccetera. E poi un'altra cosa, la lavatrice invece si fanno almeno due lavaggi alla settimana qua, tra il sabato e la domenica, capisci? Per cui non è già il consumo di acceso, altro che se c'è. Vabbè, ma si risparmia, sabato e domenica rientrano in quelle fasce orarie, capito? Vabbè, tanto per rifarrafa si paga sempre un bel, prima io pagavo una cazzata, pagavo 70 euro, 80 euro massimo. Altri tempi già, altri tempi, magari tornassero quei tempi. Avanti fra, scusa il monologo che mi ho fatto. Ma figurati, poc'anzi l'abbiamo fatto noi, cioè, io e tu, adesso tu e tu, non c'è problema, tranquillo, nessuna scusa. Comunque è così, io se tu ti guardi le bollette dello stesso periodo e vai indietro di tre anni, in tre anni sono triplicate, anche io pagavo sulle 70, 80 euro, 100 euro, caspita, adesso ne pago quasi 300, cioè 270, è tantissimo, non è neanche giustificabile questa cosa, perché il gas è diminuito, molte cose sono diminuite, il petrolio è diminuito, addirittura adesso è sotto i 70 dollari, 65, 66, eppure i prezzi sono sempre alti, ci stanno marciando sopra. Oggi sono andato a comprare le Avantix per il cane, leggo le fialette, da 30 euro che costavano, l'ho pagato 47 euro, c'era lo sconto del 20% e le ho pagate un po' di meno, poi sono andato su internet, stessa marca, tutto quanto, 10 euro in meno costava. No, è allucinante. Io a volte tu metti un panino vuoto, ma io di quelli leggeri, quelli tipo tartaruga, che dentro sono molto, la mollica è molto leggera, cioè 80-90 centesimi, cioè prima con in lire cosa sarebbero? 1600 lire, 1700 lire, prendevi un chilo di pane prima. Eia, è così, così. Ma si può più comprare nulla. Ti metti in testa di non c'è. Ma come fai? Ci vuole la carta di credito di Paperone, ci vuole. Avanti Giulio. Ok, purtroppo gli aumenti ci sono stati e ce li dobbiamo tenere, perché sono convinto che non ritorneranno mai più. Adesso si parla, poi bisogna vedere cosa fanno, che in aprile dovrebbe diminuire ancora la bolletta della luce, ma io non lo so. C'è gente, e poi non parliamo di acqua, mi dà acqua che poi tra l'altro l'acqua è sporca, perché noi cosa la usiamo l'acqua? A farti la doccia, la usiamo praticamente, poi per il resto usiamo acqua minerale sia per bere che per cucinare, eccetera, eccetera. E 270 circa di acqua, ti puoi immaginare, Franco, e prima te la potevi pagare anche in due volte, adesso invece la devi pagare tutte insieme, tra l'altro. Ecco, buonasera. Sì, K, un attimo che sto parlando in verticale, avanti il break. Buonasera a tutta la ruota, ciao Giulio, ciao Franco e chi è in ruota. Vai Giulio, riprendi, buonasera di nuovo. Ciao Gavino, ben entrato. Anch'io sono entrato 5 minuti fa. C'è Gianni anche in guardamobile in giro, adesso te lo mando avanti. Vai Gianni per Gavino che è entrato. Non lo so se mi ascolta Gavino, mi ascolti. Forse non ti ha sentito, Gavino. Gianni ti ha rilanciato, ma forse non l'hai sentito. Sì, Sì, ho sentito, non so se mi ascolta Gavino, sì, l'ho copiato. Buonasera a tutti e ben sentiti. Ciao, come li copi? Cosa Gavino? Sì, ho detto, ti ho copiato, e... l'ultimo pezzo no. Giulio, come mi copi? Ma stando alle barre così a LED che ci sono qua, intorno ai 9,5 penso, forse può essere anche 9,10, ma di preciso non te lo posso dire, perché a LED questo strumento, per cui di preciso non te lo saprei dire, o comunque si ferma un pochino oltre il 9, oltre la barretta del 9 si ferma, o bravi. La radio già è buona, dai. È buona la radio? Sì, io ti sento bene, no? Non c'è problema. Un po' cupa, però già è buona. È positivo, dai, positivo. Va bene. Riprendi Gianni. Ma sei in barra mobile? Ehi, è in barra mobile, capito? Non so se mi stai ascoltando, è movimento. Sì, positivo, ti ascolto, adesso ti ho ascoltato bene. K, va bene, io adesso mi sono fermato qua vicino a casa, perché poi devo portarci il cane, dai. Così almeno sono più vicino. Fra, avanti. Sì, ben entrato anche a Gavino, vediamo un po' se mi ascolta, Gavino. Sì, Franco, ti ascolto. Sì, dove sei, Gavi? Che zona sei? Io sono, diciamo, zona periferia di Sorso. Per me è un po' negativa, comunque dai, riesco a tirarti fuori abbastanza bene, dai. È positivo. Va bene, importante è tirarmi fuori. Me lo prendi giù? Ok, infatti è quello che ho sempre detto io. È interessante sentirci, poi il segnale lascia il tempo che trova, non guadagniamo e non perdiamo niente. Per cui va bene così, non c'è problema, è interessante ascoltarci. Avanti Gianni. Ehi Aggiù, e tu adesso come mi ascolti da qua? Io ti ascolto praticamente con lo stesso segnale che mi sta arrivando da Vino, uguale. Oltre il 9, io suppongo già che sia 9,5 e 9,10 il segnale, perché essendo a LED non è che ti posso dare un ragguaglio proprio più preciso più di tanto, capisci? Ma già va bene questa antenna, l'ho appurato, è più corta, più fina, più resistente alla cappotta, perché c'è la calamita che è molto più aderente, dai. Ok, già. Sì, anch'io stavo guardando l'altro giorno al computer per vedere se trovavo la PL800, quella di una volta, quella originale, ma niente da fare, è tutta cambiata, non si trova più quella. Io ce l'avevo, l'avevo regalata ad un amico, che poi non so nemmeno se l'ha usata, perché lui è anche radioamatore, tra l'altro. Avanti, Franco. Quella che io forse dovrebbe essere la mia è la Turbo 2001, mi sembra, me l'ha data Eugenio, quello di Porto Torres, Giulio. E quella è una bella antenna, è lunga, insomma quella che avevo io era la PLC 800, lunga intorno a 1,60 m, 1,65 più o meno, lo stelo era tutto quanto cromato in acciaio inossidabile, unico, dalla base più grosso alla punta più sottile, sempre per evitare un po' di QRM, perlomeno così dicevano quando si era costruita. Avanti Gavi. Sì, non è quella che ha preso Gianni l'antenna, è ultima, aspetta, guarda come rende giù. In confronto alla 2001, diciamo che è un giocattolino, però vedi come rende. Sì, rende, infatti lo rende. Ho visto che lo sento, Gianni sempre qua per tutto, naturalmente ci sono delle posizioni dove si trova che magari arriva più basso, però lo sento sempre, non c'è problema. Avanti Gianni. Diciamo che è una bella antenna, non è fatta qua, è fatta in Germania, però infatti è arrivata dalla Germania, non è arrivata dall'Italia. Ok, ho capito, esattamente, non è detto che la PL800 sia l'unica, però era anche la 1000, poi la PLC 1000, quella era lo stesso fenomenale, quella però era più lunga, intorno a un metro ottanta, una cosa del genere, ma era troppo lunga, però andava bene, allora era di moda. Oggi invece, se ti metti un'antenna lunga ti dice, ma questa qui è quella del ciclo, ti dicono già. No, ti dico, a me la macchina è l'autoscontro. Sì, quella che io è 1,80, soltanto che non parte dalla capota, ma parte dalla ruota di scorta della macchina, quindi così io ho un fuoristrada e quindi perdo una quarantina di centimetri, quindi non sembra così alta. Però ho fatto la prova, esce meglio con la base magnetica piuttosto che sulla staffa dietro la ruota di scorta. Avanti Giulio. Certo, finisce che quando è dietro praticamente in una direzione mi spara bene, o meglio, però è naturalmente penalizzata per il fatto che c'è la ruota che è formata della vettura, della cabina, e chiaramente quando è sopra invece al centro della capota è omnidirezionale, se la metti dietro è spostata, diventa direttiva, magari in una determinata posizione puoi anche arrivare bene, però in altre no, è così che funziona. Vai e fai girare poi il cabino. Scusate un attimino, posso? Prego, capito. Io in queste condizioni qua non posso continuare a rimanere in radio perché a me non piace fare radio, sotto c'è gente che vuole disturbare, poi ci si lamenta che la frequenza è vuota, si lamentano, fanno e dicono, però diciamo che fare radio così è diventato impossibile. Io per stasera, per stasera io chiudo la trasmissione, perché a me fare radio in questo modo, ripeto, non piace, dico che quando che c'è gente che la radio a casa non meriterebbe neanche di averla perché non lo so, non ci sono parole per definire. Comunque vi auguro, dai, un buon consiglio, un buon tutto, ci si risente quando le cose cambieranno. Ciao Gianni, ciao Franco, ciao Giulio, ciao a tutte le persone, a tutti. Io chiudo la trasmissione e buona serata. Aspetta Gabri un attimino, ma io non ho sentito niente, ma a chi la metteva una portata? Io lo sentivo sotto di Giulio, qualcosa c'era sotto, pensavo che fosse propagazione, sicuramente qualcuno vicino a lui, vicino a Gavino. Io non sentivo niente. Vabbè Gabi, si è deciso così, buona serata. Magari ci si trova dopo cena, dai. Ciao Gavino, allora dai, un abbraccio da parte mia, speriamo, come si dice, tempi migliori, avanti Giulio. Ok, ciao Gavino, non so se mi stai ascoltando. Mi te ne accorgi? Saluto comunque, dai, avremo modo di sentirci magari in un altro momento, non c'è problema, lasciamoli fare, che fai gli iscritti, sono miserabili e basta. Va bene, dai, avanti fra. E anche adesso, però deve essere basso, cioè, non ti disturba nemmeno, quindi non so dove in che zona sia. Adesso te ne sei accorto Gianni? Sì, adesso sì, ma passa Giulio, non lo disturba. Non è un problema, perché se faccio così poi lo uccido proprio, guarda, lo uccido proprio. Se faccio così lo uccido definitivamente. Gavino, mi ascolti se sei ancora all'ascolto? Deve essere vicino a lui, perché da disturbarlo così tanto deve essere dalle parti sue. Adesso anche a te la me. Anche a me? Eia. E mi disturba? No, io sono vicino. No, voi passate tutti alla grande. Mi sentivo tutti proprio. Vabbè, tanto io sono andato a casa a prendere il cane, a portarlo giù, perché poi devo andare a prendere l'aereo. Purtroppo ci sono sempre state queste persone, ci saranno sempre, E cosa ci vuoi fare, fra i miserabili ci sono sempre stati e ci saranno sempre. Ah, non so come definirli, boh, forse infelici più che altro. Per me sono delle persone infelici. Beh, certamente che sì, cosa possono essere persone che fanno così? Più che dei deficienti, degli infelici, soprattutto, beh, facciano come credono, che se ne frega. Sì, lui è una persona serena e felice, no? Non è che ci pensa a certe cose, pensa a godersi la vita. Oh, yeah. Certe volte ci sono certi elementi proprio che fanno pena, non è possibile, vai già. Io ho fatto bene a rilanciarmi che sto chiudendo, magari fra riprendo dopo verso le 7:30. Capo, non lo so se ci sono, io ancora mi devo fare la doccia, sono rientrato al lavoro, ho acceso e mi devo ancora lavare, cavolo. Ok, ciao già, allora ci sentiamo, dai, le prossime. Telefono per me fra, scusa che devo rispondere al telefono. Capo, ciao Gianni, alla prossima o più tardi, dai, vediamo. Franco, ci sei? Sì, Giulio, sono qua. Purtroppo ti devo lasciare, dai, devo uscire un attimo, devo uscire qui vicino, però ti devo lasciare, mi dispiace. Ci sentiamo un altro momento, cosa mai fa. Grazie, scusa se ti faccio così, sei da solo adesso in questo momento. Ok. No, figurati, dai, ne approfitto così almeno mi faccio la doccia, dai. Dai, un abbraccione a te e alla famiglia e come sempre è un piacere sentirti. Ok, ciao. Ok, fra, potrà cambiare tutto al 100%. Tu lo sai, no? Non c'è bisogno che nemmeno che te lo dica, però è così. Un abbraccio anche da parte mia, dai, salutoni e salutoni in casa. Ciao, ciao. Grazie ancora per la chiacchierata. Grazie a te, ciao. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Hola. Attenzione, binario 10, cambio. Attenzione, binario 10. Binario 10, cambio. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Hola, hola, hola, attenzione 10. Attenzione, canale 10, cambio.